Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Proprio perché la realtà condivisa è il sottotitolo di questa trasmissione, questa mattina, ma su richiesta pressante di gran parte del pubblico che me lo scriveva su Facebook, su Twitter, quindi un pubblico che ha già una certa dimestichezza col condividere le proprie realtà emotive, questa mattina vorrei parlare di un probabile cambiamento che potrebbe avvenire nelle nostre abitudini o nelle nostre consuetudini di navigatori di rete. Partiamo da un presupposto che siamo stati abituati negli ultimi 10 anni, che esistono degli strumenti che facilitano il nostro accesso alla rete. La rete, faccio un minimo di cronistoria, fino a una decina, quindicina di anni fa, era un luogo frequentato da una sorta di persone privilegiate che avessero una patente per navigare, una capacità per navigare. Non veniva detto mandami un messaggio oppure comunicami una cosa o fatti vivo in quel tal posto della rete. Non mi ha detto esattamente, ma tu navighi in rete. Navigare in rete significava avere attraverso vari strumenti di vario tipo, alcuni molto empirici, alcuni con un certo grado di funzionalità, o addirittura uscivano in tempi ancora precedenti delle pubblicazioni cartacee, una sorta di indirizzario della rete. La rete veniva considerata come una specie di mappa stradale a cui si accedeva da alcune realtà che venivano rappresentate in rete. Questa è una visione abbastanza arcaica della rete, che era una specie di catalogo incorporeo di realtà che già esistevano nel mondo concreto. Si andava in rete a vedere il Louvre, la visita del Louvre era una, diciamo a metà degli anni 90, una delle rappresentazioni più diffuse di internet. Si andava nel sito di Playboy, si vedevano le prime donnine spogliate, già la rete assumeva questo carattere sulfureo di luogo della trasgressione, di luogo in cui omnia licet. Poi, andando avanti nel tempo, una decina di anni fa, arrivò il motore di ricerca Google. Il motore di ricerca Google, assieme allo strumento di Wikipedia, ha cambiato notevolmente il grado di affabilità con la rete. Improvvisamente tutti si sono sentiti di essere capaci di girare dentro la rete. La rete ha cominciato poi lentamente a assumere anche un carattere diverso, un carattere sociale, un carattere di luogo di incontro, di intercomunicazione, interscambio, non soltanto un luogo in cui si andavano a vedere delle cose. Ma rimane il fatto che un motore di ricerca efficiente e un'enciclopedia autoprodotta, autoscritta da alcune persone che se lo pongono come appunto loro impegno quotidiano, quello di aggiornare, fornire nuovi elementi sulle voci, con tutti i limiti che può avere questo, con tutte le possibili difficoltà, devo dire, io da giornalista, ma da un'infinità di altre figure professionali, per noi il lavoro è stato molto più facile. Ma soprattutto negli elementi accessori, nel compilare un pezzo, nel formulare un pensiero. Io ieri parlavo di cinema con Sansonna, mi viene citato un film e posso velocemente digitare il titolo di quel film e avere comunque delle notizie di quel film. È chiaro che un purista dell'analisi cinematografica dirà che ci sono delle imprecisioni, delle approssimazioni, va di fatto che io posso vedere chi è il regista, chi sono gli interpreti, chi sono i protagonisti e via dicendo. Beh, tutto questo nel momento in cui la rete è diventata uno strumento sociale, naturalmente è andato a integrarsi con una valanga enorme di materiali che rete immette ognuno di noi. Voi immaginate le nostre foto, le nostre chiacchiere, prima i blog di quelli che avevano un blog, poi andando avanti tutti gli elementi che ogni giorno ne mettiamo nella rete. Dal tweet che abbiamo fatto questa mattina per annunciare il programma radiofonico, ai tanti tweet che ognuno di voi fa semplicemente per segnalare la propria opinione su un fatto di cosmica importanza, ma è quella una maniera comunque per autodeterminarsi, per crearsi un proprio alter ego efficiente, intercomunicante con il resto del mondo. Beh, tutto questo è molto probabile che potrebbe avere presto un cambiamento, perlomeno tutto questo fantastico gioco, questo strumento di grande utilità basato su dei grandi strumenti anche molto legati a un monopolio all'interno della rete, potrebbe cambiare. A un certo punto qualcuno potrebbe dirci: beh, vi siete divertiti finora, vi è piaciuto il gioco, è ora che cominciate a dare anche voi qualcosa in cambio. Google ha annunciato una rivoluzione in materia di privacy. L'azienda di Mountain View ha scelto di semplificare regole e termini di utilizzo dei suoi servizi per rendere la vita più facile agli utenti, che ormai devono gestire decine di account e di servizi spesso interconnessi fra loro, dettaglio che complica ulteriormente le cose. Degli attuali 70 moduli odierni che tutelano la privacy, uno per ogni prodotto da YouTube a Gmail, 60 verranno riassunti in un unico documento che spiegherà quali dati vengono usati e come. Chi naviga quindi avrà lo status di utente unico che utilizza servizi diversi, ma con le stesse regole. La nuova gestione della privacy entrerà in vigore a partire da marzo 2012. Questa è la notizia, abbiamo usato un notiziario di TM News, ma è stata già data da molti giornali. Potrebbe cambiare qualcosa dal 1 marzo. Google, che è lo strumento che ormai è usato in maniera universale per reperire informazioni in rete, per orientarsi in rete, ma per avere un'infinità di altre funzioni, come avere delle mappe delle città, per individuare dei luoghi fisici, per collegare comunque questi strumenti di ricerca con alcuni strumenti in cui noi mettiamo dei prodotti del nostro ingegno, del nostro lavoro, delle nostre professioni, condividiamo documenti, abbiamo gallerie di foto. Beh, tutto questo a un certo punto potrebbe diventare qualcosa che cambia la nostra percezione dei limiti della riservatezza o del controllo che noi possiamo avere del nostro materiale in rete. È così o non è così? 800240024, tutti quelli che mi hanno posto il problema, a tutti quelli che si preoccupano, a tutti quelli che vorrebbero sapere di più, beh, questa è la mattina dedicata proprio a voi, in cui cercheremo di fare un po' più di chiarezza. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Andrea Rossetti, ricordo, professore di filosofia del diritto e docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Andrea, vediamo di integrare quello che ho già detto io nella premessa, prima di appunto cercare di capire esattamente da Google cosa quello che accadrà. Trovi corretta il riassunto che ho fatto io della percezione della rete da parte dell'utente, diciamo dell'utente nazionale, fermiamoci alla nostra realtà nazionale in questo momento? Ma certo, l'impressione è che l'utente non abbia ancora una precisa percezione di quello che fa in rete. Ecco, direi che questo è il problema fondamentale. Il riassunto che è stato fatto le nuove regole di Google mi sembra precisissimo, no? Nel senso che in realtà dal mio punto di vista, dal punto di vista dell'utente finale, non cambieranno molte cose, sarà semplicemente molto più efficiente la maniera con cui Google sarà in grado di aggrumare e di studiare i dati che sono su di me. Che io metto in Google, che Google ha inevitabilmente su di me dal momento che io utilizzo Google, ormai l'ho controllato adesso addirittura dal 2005. Per l'utente medio almeno apparentemente non cambierà, io credo, nel breve periodo nulla. È il lungo periodo quello su cui ci possiamo effettivamente fare delle domande, no? Come abbiamo già detto più volte, le nuove tecnologie, le tecnologie come internet, le tecnologie messe offerte da Google, ma non solo da Google, quello che faranno nel lungo periodo è probabilmente modificare la nostra idea di memoria, no? Quando noi memorizziamo una cosa, tra 10 anni abbiamo la certezza che potremo andare a rivedere esattamente quello che abbiamo scritto oggi. Tra 10 anni noi avremo la certezza, ad esempio, che sui server di Radio 24 sarà presente la trasmissione che noi stiamo in questo momento registrando. Di conseguenza la memoria che noi abbiamo, direi addirittura come specie, l'idea di memoria che noi abbiamo addirittura come specie, inevitabilmente cambierà, così come è cambiata l'idea di memoria, la memoria, quando è stata introdotta la scrittura, no? La scrittura è una forma di mnemotecnica, è una maniera con la quale gli esseri, un modo, una tecnologia che gli esseri umani hanno inventato per ricordare le cose che prima venivano dimenticate. Ecco, qui ci troviamo di fronte a una tecnologia che in qualche modo amplifica a dismisura le possibilità di ricordare che ci sono state messe a disposizione dalla scrittura. Adesso letteralmente verrà ricordato dalla memoria tutto quello che scriviamo, tutto quello che videoregistriamo, tutte le parole che decidiamo di incidere, e saranno potenzialmente recuperabili da qui all'eternità. Non solo, ovviamente, perché è chiaro che Google, in quanto ditta privata, ha intenzione di fare in modo che le informazioni che noi salviamo nella sua nuvola, sui suoi server, servano per produrre reddito, insomma, per produrre soldi, che è il fine principale di una ditta come Google, che non è un'entità di beneficenza, insomma, ecco, ma è una società per azioni regolarmente quotata in borsa. Ecco, nell'uso che si fa comunque dei prodotti Google, rispetto alla nostra consapevolezza poi di usarli. Ci sono anche alcune fattispecie molto divertenti, le mappe ad esempio di Google, o i sistemi di identificazione, i sistemi di traccia del nostro passaggio, che possono essere collegati ad alcuni nostri smartphone. Molti non se ne rendono conto che questo giochetto divertente, però naturalmente, lascia comunque delle tracce dei nostri passaggi. Certo, beh, io uso Google Latitude, io ne uso davvero molti, insomma, dei servizi messi a disposizione da Google. Io uso questo servizio che si chiama Latitude, che condivido con alcuni amici. Ad esempio, questo servizio, quando io mi avvicino a uno dei miei amici in una zona che non sono solito frequentare, mi manda un'email che mi dice: guarda che il tuo amico Pinco Pallino è a 1 chilometro da te in questo momento. Se io domani vengo a Roma a trovarti, Gianluca, dal momento che io e te non ci vediamo spesso, sicuramente mi arriverà un'email di Google che mi dice: guarda che ti trovi vicino a Gianluca Licoletti, che è un tuo amico e che con te condivide la posizione. Addirittura all'interno di Google c'è un servizio che mi permette di vedere giorno per giorno qual è il percorso che io ho fatto mentre avevo attivo la Latitude. Io lo sto tenendo attivo per esperimento da ormai 6 mesi ed è abbastanza divertente, perché io posso andare a vedere il percorso che ho fatto il 12 dicembre del 2011. Anche qui io lo faccio consapevolmente, so che sto usando questo sistema, sono disposto a correre tra virgolette il rischio che le mie informazioni vengano utilizzate in questa maniera. In molti casi la consapevolezza dell'utente, no? Della fine dei dati che faranno che l'utente non ha, insomma, l'utente un po' ingenuamente affida informazioni a Google che magari potrebbe un domani pensare non più opportuno dare. Ecco, io faccio un esempio molto concreto, vediamo se riusciamo a far capire agli ascoltatori. Ho aperto in questo momento la mia casella di Gmail, che ho aperto il 29 novembre del 2004, era ancora quelle caselle che si avevano soltanto se le mandava un amico, ancora non era diffusa Gmail. Da allora ho 14,6 gigabyte di materiale in questa cartella, quindi 2004, sono ormai 6 anni che ho questa casella. Qui ho 6 anni, 8 anni, ecco, 8. Ho 8 anni di tutto quello che ho scritto, di tutti i pezzi che ho scritto per il mio giornale, tutte le foto che ho mandato, tutte le comunicazioni che ho fatto, 8 anni racchiusi in 14 gigabyte, quindi sono 8 anni della mia vita intensa che ho sempre usato questa casella, la mia casella che ho usato principalmente perché è veloce, perché è comoda, si può mandare un sacco di roba, c'ho le foto delle vacanze di questi 8 anni, c'ho tutti i documenti che ho fatto, insomma è un valore grosso. Questa roba, secondo te, finora io ho la certezza che perlomeno è in un posto tranquillo dove nessuno può metterci il naso se non io lo voglio. Questo cambiamento dal 1 marzo farà sì che tutto questo materiale potrà essere condiviso assieme a tutto quello che ho messo volontariamente su Facebook, a tutti i tweet che ho fatto? No. Questo è il punto fondamentale. Sì, no, ovviamente no. Qui adesso sto cercando il punto preciso delle nuove policy Google, però esplicitamente gli hai detto, no, che l'idea fondamentale è che tutto ciò che è proprietà dell'utente resta proprietà dell'utente. Soprattutto Google sostiene che le mail, insomma, gli strumenti, insomma, le comunicazioni private resteranno private. Google si riserva la possibilità di utilizzare invece tutti quei materiali che noi mettiamo pubblicamente online. Cioè, se io carico su YouTube un filmato, ecco che Google si riserva la possibilità di utilizzare ai suoi fini, tendenzialmente al fine di migliorare i propri servizi, il materiale che ho messo. Ma ovviamente, direi, insomma, naturalmente, non so come meglio dire, la posta privata resta assolutamente privata. Questa è una delle cose che viene esplicitamente ricordata. Ecco, lo leggo proprio qui, insomma, dai termini di servizio di Google. Dice: alcuni dei nostri servizi permettono all'utente di inviare contenuti. L'utente mantiene gli eventuali diritti di proprietà intellettuale detenuti su tali contenuti. In breve, ciò che appartiene all'utente resta di sua proprietà. Questo addirittura non sarebbe una mera violazione della privacy, ma sarebbe addirittura una violazione del copyright, cosa che Google ovviamente, direi, non ha nessuna intenzione di fare. Sentiamo velocemente un ascoltatore, Paolo, per dare l'idea che il pubblico sta seguendo, visto che ha chiesto di fare questa missione. Poi sentiremo direttamente Google per darci chiarimenti e, se possibile, rassicurazioni. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Sì, l'ascoltiamo. Allora, io personalmente sto cercando di usare questi social network, Twitter e anche tutto il mondo dei servizi Google, perché penso che siano utilissimi, però sono molto consapevole dei rischi che ci sono, cioè loro mi profilano, anzi io mi autoprofilo. E allora, essendo consapevole, teoricamente uno si dovrebbe poter schermare, no? Invece non è così, secondo me, perché È molto semplice, io su Twitter senza dare il mio nome e cognome, giusto? Quindi non sono autoprofilato, profilano un nickname, però io uso solo metà dei loro servizi. Cioè la gente non può trovarmi sul social network e siccome lo uso anche per motivi professionali, diciamo, mi autolimito. Lo stesso per Google. Ma è la prima volta che collegherà Twitter al suo profilo Facebook in cui è palesemente profilato, immediatamente viene assimilato. D'ora in poi lei sarà con quel nickname su Twitter e se ripubblicato su Facebook saranno associati i due profili, quindi Ma non ho Facebook, apposta non mi sono fatto Facebook. Ho deciso di farmi Twitter a metà, ma mi automutilo, cioè ne uso solo metà. Non è un grande fratello violento, è un grande fratello che semplicemente ti dà qualcosa per qualcos'altro. Se non usi una cosa non è neanche Ma un grande fratello mica detto che sia un grande buon samaritano, perché dovrebbe darcelo gratis? È verissimo, e quindi praticamente se uno è molto consapevole di cosa succede e vuole proteggersi, non c'è la possibilità, semplicemente l'alternativa è fare come faccio con Facebook, non usarlo. D'altra parte sono molto consapevole che è indispensabile utilizzarlo, cioè il futuro di internet non è più web 1.0, è questo, no? Quindi lei è d'accordo, Paolo, quello che sostengo io, ma mi tengo per me poi le mie opinioni, che in realtà vadano riscritti proprio i principi riguardo quello che consideriamo riservatezza. Faccio un esempio: noi fino a una decina di anni fa eravamo abituati che per fare una telefonata occorresse chiudersi in una sorta di confessionale, di cabina bunker, e fuori stavano gli altri, noi dentro, nella nostra riservatezza tutelata dalle pareti della cabina, facciamo la nostra telefonata. Oggi banalmente normale telefonare in metropolitana, in treno, nessuno si preoccupa più che altri possano ascoltare quello che noi diciamo. Può essere che lo stesso passaggio avvenga anche nel campo dell'interlacciarsi attraverso la rete. Quello che oggi per noi sembrava ieri madornale, cioè impossibile far vedere, non so, la casa dove abito, o farsi tracciare lungo un percorso in automobile, o mettere dei propri pensieri, delle proprie foto, è totalmente normale. Lo è per i ragazzi, per i miei alunni a scuola e all'università, lo è, la loro concezione di privacy è un'altra, Zuckerberg deve dire così, però secondo me bisogna tracciare una nuova linea, una qualche forma di tutela di una nuova visione della privacy, altrimenti non so. E questo, per questo abbiamo Andrea Rossetti, che è un docente di informatica giuridica, e su quello stanno lavorando. Simona Panzeri, buongiorno. Simona Panzeri, l'ho fatta ascoltare in silenzio finora, ma è la rappresentante di Google, è il direttore della comunicazione di Google in Italia. Ho posto il problema e mi sono confrontato con alcuni ospiti ascoltatori. Vediamo dal suo punto di vista se può sintetizzare quello che accadrà il primo marzo. Certo, quello che accadrà dal primo marzo è un'operazione di semplificazione. Noi avevamo 70 privacy policy per i nostri servizi che comprensibilmente non sono un approccio particolarmente semplice per gli utenti, è difficile che ciascun utente possa leggere 70 privacy policy. Abbiamo deciso quindi di condensarne 60 in una sola, che è stata riscritta completamente, riducendo quello che si potrebbe chiamare il legalese, cioè la terminologia troppo complessa per un utente normale. E l'obiettivo è quello di aiutare gli utenti a capire con più chiarezza che tipo di dati raccogliamo, che cosa facciamo dei dati, e rendere chiaro che nel momento in cui un utente è loggato nei nostri servizi viene trattato come un unico utente. Mi scusi, Simona Panzeri, mi vorrei rivolgere anche a un pubblico meno attrezzato. Quando noi parliamo di privacy policy significa quel foglio che nessuno legge, quella paginata che nessuno legge, quando uno si iscrive a un servizio, dice io voglio l'album delle foto di Picasa, non so, quando uno si iscrive a un servizio c'è tutta una serie di pagine che andrebbero lette, di solito si scrollano velocemente, si scrive sì e uno ha fretta di entrare in quel servizio. La privacy policy è questa qua, è diciamo il contratto che si fa tra chi dà il servizio e chi usufruisce del servizio dei termini di quel servizio. Sì, è la spiegazione che l'azienda dà del tipo di dati che raccoglierà quando l'utente utilizza quel servizio e dell'uso che ne farà. È un'operazione di trasparenza ovviamente dell'azienda nei confronti dell'utente. Abbiamo deciso di semplificarle e di condensarle in una sola, valida per la maggior parte dei nostri servizi, proprio perché ci rendiamo conto benissimo del fatto che è molto complesso per gli utenti leggerle, addirittura proprio perché gli utenti difficilmente leggono privacy policy lunghe e con terminologie complicate, abbiamo fatto degli sforzi tipo realizzare dei video che consentano di comprendere quali sono i cambiamenti e quali sono le modalità di gestione dei dati. Però oltre a capire quello che cambierà, secondo me è assolutamente fondamentale che precisiamo che cosa non cambierà. Innanzitutto i dati degli utenti, né oggi né con le nuove privacy policy che saranno effettive dal 1° di marzo, non vengono venduti a terzi. E questo è un punto fondamentale. Non raccoglieremo più dati di quanti ne raccogliamo oggi. Non cambieremo le impostazioni che gli utenti hanno dato alla condivisione dei documenti, quindi non solo, come diceva prima il professor Rossetti, i dati degli utenti restano di loro proprietà, ma se un utente ha deciso che un determinato video, una foto, un contenuto qualsiasi è privato, quello resterà privato. Nulla verrà reso pubblico che non sia stato reso pubblico intenzionalmente dall'utente. Allora, Simona Panzeri, ci fermiamo soltanto un istante, devo dare le informazioni della borsa, non volevo interromperla in un punto cruciale, quindi ci fermiamo con questa rassicurazione. Tutto quello che finora un utente ha deciso che rimanga di suo esclusivo dominio rimarrà di suo esclusivo dominio, ma soprattutto il possesso di quello che lui metterà in rete rimarrà dell'utente, quindi le vostre foto non potranno essere vendute perché rimarranno vostre. Melog, la realtà condivisa. Io volevo raccontarvi un piccolo particolare della mia vita. Io sono un'ex obesa e di parecchio pure. Io ho perso 64 kg nel giro di un anno e mezzo. Cosa c'è nella mia borsa? La mappa di Cagliari. Poi la custodia degli occhiali vuota, la mia crema per le mani della Fior di Magnolia, che non può mai mai mancare, che io adoro. Poi le cicche, il deodorante che porto sempre in borsa, il fiocchettino di un pacchetto regalo. Questi sono due esempi che stiamo facendo di due persone che su YouTube raccontano di sé. Una racconta la sua vita, l'altra mostra cosa ha all'interno della sua borsetta. Totalmente lecite, inoffensive attività, gratificanti attività. La vera lussura della nostra contemporaneità è il poter allucinare un altro se stesso, che noi costruiamo giorno dopo giorno, con i nostri pensieri, che ci sembrano eccelsi se confrontati con quelli di altre persone, che ci sottolineano, vedi anch'io l'ho pensato, anche io pensavo una cosa del genere, o avversano il nostro pensiero, quindi ci fanno sentire in un dibattito, in una dialettica, cosa che normalmente nella sola vita concreta non ci capita come occasione. Noi frequentiamo persone e ambienti omogenei, parliamo di lavoro con i nostri colleghi di lavoro, parliamo di beghe familiari con i nostri familiari, parliamo dei nostri desideri con le persone cui affidiamo la nostra intimità, ma finisce lì. La rete ha permesso di creare tanti altri noi stessi, oppure sovrapporre tante dimensioni di noi stesso, attraverso le quali noi abbiamo sicuramente una corroborante gratificazione quotidiana. Se no, perché altrimenti in questo momento molte persone stanno già mandando foto nel profilo Facebook, molte persone stanno già raccontando com'è il tempo, come vedono la giornata, cosa passa per la loro testa. Perché? Perché la rete è qualcosa di più che un servizio quantificabile nei termini di dire ti do tanto spazio per metterci le tue cose e ti permetto di acquistare tante cose. No, la rete entra più nel profondo, diventa qualcosa che appartiene e attiene alla nostra sfera più intima, la sfera delle passioni, dei desideri, dell'impalpabile maniera di porsi verso se stessi e verso gli altri. In questo momento sta accadendo che tutto questo che sembrava che fosse una sorta di benedizione che ci ha dato l'epoca in cui viviamo, che qualcuno ci ha regalato, si comincia a fare i conti col fatto che dobbiamo renderci conto, perlomeno nessuno ci impedirà di continuare a farlo anche in maniera esagerata, renderci conto di quello che facciamo, i termini di cui lo facciamo. Perché? Perché qui si sta riscrivendo una nuova maniera di concepire il privato e il pubblico. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, sono io. Sì, lei. Buongiorno Nicoletti, mi chiamo Giovanni e chiamo da Milano. Ho fatto una riflessione in questi giorni e volevo condividerla con voi, soprattutto volevo condividerla con la responsabile di Google. Io quando utilizzo Google, e lo utilizzo professionalmente, quotidianamente, mi accorgo che sempre più Google riconosce i miei comportamenti. È un mio fratello maggiore, un mio tutor. Io digito una parola, in base all'utilizzo storico che ho fatto, Google mi fornisce una serie di risultati e ciò mi facilita e questo va bene. Aiuto, per esempio, digito una parola come Roma, ma poiché io sono un consulente aziendale, certamente, anziché fornirmi Roma capitale, mi fornisce il nome di aziende che fanno Roma, ok? Mm. Il problema è un altro, però, cioè, visto che Google mi aiuta e mi fornisce risultati, a questo punto condiziona la mia conoscenza, cioè mi fa comparire in prima pagina i nomi e diciamo gli indirizzi ai quali mi devo collegare secondo una logica sua. L'algoritmo di Google non sì, è sì, conosciuto. Però non nella parte destinata alla ricerca, diciamo nella barra laterale in cui appaiono le pubblicità. No, nella parte destinata alla ricerca compaiono i più cliccati, si dice, giusto? E i più cliccati comunque sono condizionati dal fatto che Google ti può, ponendoti tra i primi risultati quelli che vuole lei, cioè in qualche modo alimenta il meccanismo, cioè ti fa comparire più cliccati, ma poiché lei mette quelli che sostanzialmente il proprio algoritmo individua, alla fine i più cliccati sono quelli che vuole lei, perché per comportamento nessuno di noi va oltre la seconda, la terza pagina. Quindi in realtà il grande fratello Google. Sì, ma lei può specializzare la ricerca, lì può cercare i dati in ordine cronologico, in ordine di rilevanza, cioè di persone ci sono andate. Specializzare la ricerca, lei crede che la signora Pina, Gina, Tina, Lina, che è un utente. Si attacca alla signora Pina, o impara a usarlo se non ne sta fuori. La regola no, è questa. Ma intanto che la signora Pina ha imparato a usarlo. C'è sicuramente un approccio di Google che condiziona la... Sentiamo. Sì, ho capito, è chiaro quello che dice lei. Non solo è subdolo, perché la signora Pina è convinta che la conoscenza passi da lì e non capisce che la sua conoscenza è condizionata dall'algoritmo e dall'utilizzo che Google fa di questo algoritmo. Ma la signora Pina, ammesso che possa esistere ancora in futuro una signora Pina che si muove in rete con la stessa consapevolezza della bella addormentata sulle scale del palazzo del grande ballo, mi sembra un po' singolare che non abbia la possibilità di specializzare una sua ricerca a chi fa una ricerca. È chiaro che ancora ci troviamo in un momento di passaggio in cui esiste un mondo dalla coscienza profondamente analogica, che considera tutte queste diavolerie in cui c'è sempre dietro un grande vecchio, un grande fratello che ci vuole fregare qualcosa, e la realtà è che chi fornisce questi servizi alla fine dovrà trarre un profitto da questi servizi, perché non, a meno che non diventi un obbligo degli stati di fornire motori di ricerca, chi impiega tempo e risorse nel fare questo, ma non dico questo perché voglio tenere le parti di Google, che lo penso profondamente, chi dà un servizio alla fine dovrà avere comunque un utile da quel servizio, e se è chiaramente informato l'utente di tutto quello che gli viene dato e messo a disposizione, è giusto che ne abbia però i suoi vantaggi. Simona Panzeri, ricordo, direttore comunicazione di Google in Italia. Alla domanda del nostro ascoltatore. Sì, in realtà le cose fortunatamente sono un po' più complesse di così. L'algoritmo di Google non basa solo la scelta di quali risultati presentare sul fatto che un risultato sia più o meno cliccato. I parametri sono diverse centinaia e questo fa sì quindi che il fatto che un risultato sia più o meno cliccato sia un aspetto molto parzialmente rilevante. Il punto è anche che non è detto che l'utente stia utilizzando il motore di ricerca quando è loggato, cioè ha inserito username e password, anzi gli utenti tipicamente utilizzano il motore di ricerca in modo anonimo e quindi Google non sa assolutamente se l'utente che sta utilizzando il motore di ricerca è un consulente finanziario, un turista o un ragazzino, e né gli interessa saperlo. E quindi da questo punto di vista non c'è influenza, e in più il profitto di cui si parlava prima, che assolutamente, non essendo Google una no profit, esiste, non deriva dai risultati che si chiamano organici, ovvero sia quelli che si trovano nella parte centrale della pagina, deriva dalla pubblicità, che sul motore di ricerca viene chiaramente indicata come link sponsorizzati, sono i risultati che si trovano sulla destra e che rispecchiano una logica completamente diversa. È quello che stavo cercando di spiegare all'ascoltatore, in effetti. Ovvero sia, quando un'azienda che vuole presentare una pubblicità su Google decide quale parola chiave gli utenti, a fronte di quale parola chiave che gli utenti stanno cercando, vuole presentare la propria pubblicità. Quindi, indipendentemente dal fatto che concessionaria Roma possa essere il termine che l'utente sta cercando, indipendentemente dal fatto che i risultati nella parte organica siano di un tipo o di un altro, attraverso un meccanismo di asta le aziende che vogliono presentare un risultato sponsorizzato sul termine concessionaria Roma compariranno nella parte di destra, a patto che il contenuto della pagina a cui manda questo link contenga informazioni su una concessionaria a Roma, il che è una logica particolarmente diversa. E tra l'altro avrete notato che non sempre i link sponsorizzati compaiono, perché ci sono moltissime chiavi di ricerca a fronte delle quali in un determinato momento non ci sono aziende che sono interessate a presentare dei link. Mi sembra anche chiara la seconda parte della domanda, dell'ipotetica massaia di Voghera che oggi è trasportata nel mondo della rete, cioè, ma lei non sa che le ricerche possono essere specializzate, ma ultimamente mi sembra indicato in maniera abbastanza chiara che posso cercarle in ordine cronologico, in ordine di rilevanza, attraverso tutta una serie di altre chiavi. Penso che non si possa più ammettere, se uno vuole tutelare al massimo l'indice di riservatezza o di consapevolezza della propria navigazione, non può più essere ammessa l'ignoranza del mezzo. Non può essere qualcosa in cui ci si mette così alla cieca come se si camminasse in mezzo a una strada trafficata con gli occhi bendati. 800240024, continuiamo e concludiamo dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Stiamo analizzando quelle che saranno le novità dal 1 marzo per l'utente medio italiano che si affaccia alla rete. Ci sarà una semplificazione delle varie richieste di condivisione della consapevolezza di tutto quello che si deve e tutto quello che si ottiene quando si ottiene un servizio, ma soprattutto ci sarà una sorta di integrazione dei servizi, e questo è il punto su cui magari dovremo maggiormente ragionare. Andrea Rossetti, ricordo, professore di filosofia e diritto e docente di informatica giuridica all'Università Milano Bicocca. Il vero punto sarà che probabilmente dal 1 marzo ci renderemo conto in maniera più consapevole che un video che noi mettiamo su YouTube è collegato a una casella, è un nostro nostra identità in una casella di Gmail, a un nostro luogo in cui mettiamo delle foto in un qualsiasi album che ci piace mettere in rete, o a una nostra localizzazione attraverso altri sistemi a cui abbiamo acceduto. Quindi ci renderemo conto improvvisamente, non che noi saremo più scoperti perché ci sarà portato via qualcosa che non sapevamo, ma tutte le nostre entrate in rete saranno tutte classificate in un'unica unità, e quindi logicamente ci renderemo conto di essere più scoperti. Sì, saremo sicuramente più scoperti, soprattutto perché insomma, quello che aveva detto il primo ascoltatore era tutto, che è anche il comportamento che tengo io, no? Cioè condivido unicamente le informazioni che voglio condividere. È in fondo un po' ingenuo, perché in realtà noi generiamo inevitabilmente, usando la rete, usando Google, ma usando anche altri strumenti, una serie di relazioni di cui non siamo consapevoli, ma che possono essere ricostruite. Quindi effettivamente in futuro mantenere la nostra identità online, mantenere l'immagine che noi vogliamo che sia quella conosciuta al pubblico, mantenere la nostra maschera, potremmo dire per andellianamente, sarà più difficile, perché comunque sarà possibile, anche se magari non semplicissimo, scoprire una serie di relazioni che immediatamente potrebbero non apparire. E questo è il vero problema, no? È qui, secondo me, che la legge deve in qualche maniera intervenire o dovrà intervenire in futuro, non tanto nel regolamentare l'uso dei contenuti che io metto volontariamente in rete, perché quelli, di quelli mi assumo la responsabilità, ma a regolamentare l'utilizzazione di tutte quelle relazioni che genero inevitabilmente quando vado in rete, ma di cui non sono perfettamente consapevole. Ecco, vorrei sentire a proposito, sì, l'avvocato Guido Scorza. L'avvocato Guido Scorza è docente presso il Master di Diritto delle Nuove Tecnologie della Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Bologna. Avvocato Scorza, buongiorno. Buongiorno. Il vero punto è questo: si creeranno probabilmente anche per voi molte più occasioni di lavoro, perché l'inconsapevolezza, l'ingenuità, l'essere naive di una serie di persone che si affacciano alla rete improvvisamente andrà a sbattere con il fatto e si renderanno conto di aver messo volontariamente un'infinità di dati in rete. Quando se li vedranno aggregati e interlacciati tra di loro, diranno: ma come mai in questo posto sanno di me questa cosa? Da chi deve partire l'idea di ripensare il diritto e il dovere riguardo alla rete? Ma io, come dire, professionalmente posso naturalmente augurarmi che questo accadrà sotto accada il più profilo, possibile. Esatto, ma sotto il profilo poi di chi ha a cuore le cose della rete, mi auguro che accada esattamente il contrario. C'è un assente probabilmente in questa nostra conversazione, nel senso che al centro del tavolo correttamente sin qui è sempre stato messo il tema della consapevolezza, e allora quello che trovo manchi al tavolo di questa discussione questa mattina evidentemente è lo Stato, che in tutto questo ha un ruolo fondamentale, cioè bisogna fare alfabetizzazione informatica, bisogna rendere remota l'eventualità che la famosa casalinga di Voghera sia l'utente medio che si confronta. Beh, con lei pensa, avvocato, si è parlato fino a ieri pomeriggio, l'altro ieri pomeriggio, l'eventualità che si pagasse il canone per la televisione pubblica, cioè per vedere Celentano e Festa di Sanremo, anche aziende che avessero dei computer che usano per tutt'altro uso. Pensi che quanto ha a cuore in questo momento la cosa pubblica in realtà l'alfabetizzazione informatica del paese. Questo è esattamente secondo me però il tema. Ecco, quando mi si chiede a chi compete fare in modo che scenari di questo genere, certamente infausti per chiunque, perché naturalmente è un fraintendimento importante quello relativo al cedere o non cedere a terzi frammenti della nostra identità. Ecco, nessuno può attendersi che un ruolo di questo genere appartenga ad imprese private che in maniera sacrosanta agiscono in una logica di profitto. È lo Stato che naturalmente deve investire in termini di educazione anche all'informatica, e qui noi sappiamo perfettamente che siamo un paese un po' curioso, perché appunto ricordava bene, sino a ieri parlavamo di tassare il futuro, ovvero tassare i PC dentro le aziende per finanziare il passato e quindi la televisione. Ecco, io trovo che davvero in questa discussione il tema centrale sia la consapevolezza, e mi sembra che almeno nelle dichiarazioni, ma in questo momento certamente non possiamo far processi alle intenzioni, ma nelle dichiarazioni importanti, in quelle che Google ha trasmesso per esempio al congresso degli Stati Uniti d'America, che della questione si è interessato di recente, cioè stiamo semplificando. Ecco, semplificando per un avvocato che, come dire, da anni si confronta con condizioni generali dei prodotti assicurativi, di quelli del fornitore dell'energia elettrica o dei servizi di telecomunicazione, scritte piccole piccolo ed in maniera assolutamente incomprensibile, è un primo passo verso la facilitazione dell'utente all'accesso dei reali termini di uso. Sarà sufficiente o non sarà sufficiente? Lei vedrebbe, avvocato, dei termini di possibile contenzioso fra un utente e Google in questo momento? Ma l'unico facile da mettere a fuoco è nell'ipotesi, però che non è sul tavolo, sin qui non è emersa, in cui a fronte di un'azienda privata come Google, che racconta di trattare i dati secondo certe indicazioni e secondo certe specifiche, si dovesse domani scoprire che li tratta in maniera diversa. Ma questo non è neppure sul tavolo, perlomeno denunce in questo senso non ne abbiamo. Stiamo viceversa in qualche modo discutendo o si sta discutendo più in generale nel mondo della legittimità o illegittimità da parte di un'azienda azienda privata di rivedere i termini di uso con particolare riferimento alla privacy dei propri servizi in un modo che potrebbe creare dei fraintendimenti. Questa è una verifica che però ovviamente va fatta nello specifico, ecco, posto che il filosofo del diritto è tra l'altro assolutamente bravo quando si parla di nuove tecnologie e già ai microfoni ed è naturalmente il professor Rossetti, io faccio davvero l'avvocato e dico semplicemente dal mio punto di vista nella giurisprudenza che sin qui si è accumulata il riferimento è sempre quello all'utente medio, cioè il problema del rischio di fraintendimento in una clausola contrattuale c'è ed è antico, non nasce con internet. La ringrazio avvocato, la sigla ci dice che abbiamo finito, mi sembra che il possibile chiarimento rispetto alla questione perlomeno è stato messo sul tavolo, vedremo come andremo avanti, a domani.